impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Barone Pizzini, il primo Franciacorta da agricoltura biologica, di Alessandra Scaglioni. La storia di oggi è quella di un'azienda che si trova in Franciacorta, che produce vino, che ha una storia lunga 140 anni, ma che è stata pioniera di un settore del futuro, quello del vino biologico. L'azienda si chiama Barone Pizzini, dal nome della nobile famiglia che arrivava dal Trentino in periodo austriaco e giunge in Lombardia per matrimonio, combatte nelle 10 giornate di Brescia e possiede terre e vigneti. L'ultimo Barone Pizzini, negli anni 90, cede l'azienda a un gruppo di imprenditori bresciani che decidono di lanciarsi nell'impresa. Silvano Brescianini fa parte di questo gruppo ed è oggi direttore generale dell'azienda. La storia nostra è datata a 1870, nostra attuale in particolare dal 1991, quando l'ultimo barone Giulio Pizzini, ormai in età avanzata e con la figlia non interessata a seguire il vino, ha venduto a noi la parte agricola della proprietà, e per noi intendo sottoscritto un gruppo di imprenditori amici bresciani con un socio di Milano. Siamo tutti di settori diversi. Io in particolare all'epoca mi occupavo di ristorazione e mi hanno interessato il progetto perché all'epoca si parlava poco di enoturismo, non c'erano ancora cantine aperte, mentre noi siamo partiti da subito con l'idea di fare vino, ma anche, se una struttura lo consentiva, a aprire attività turistica, quindi museo agricolo, wine shop, aperti l'enoturismo, il ristorante e più tardi l'ospitalità. E nessuno di noi era del settore, anche se vabbè, io sono di Erbusco e il nonno di mio nonno faceva vino, quindi siamo nati lì e il vino ce l'abbiamo comunque in famiglia. E dicevo, ci siamo messi insieme, è stato un po' il ragioniere Pagnoni, che all'epoca era stato il nostro commercialista collante, e inizialmente l'idea era quella di prendere in affitto l'azienda, perché uno dei problemi dell'agricoltura è che il capitale immobilizzato è importante, evidentemente, quindi o sei il figlio del barone, quindi erediti la proprietà, che di solito è la soluzione più facile, oppure devi, che vuol dire, raccogliere amici, e in questo caso amici e conoscenti che portano capitale e credono in questo progetto. La maggior parte dei soci ha altre attività e investe all'inizio nell'azienda per farla crescere, sino a che non diventa necessario entrare direttamente, almeno per Brescianini. Sin dall'inizio ci siamo detti che questo sarebbe stato un investimento per i nostri figli e quindi dovevamo vivere da altro per poter dare la possibilità all'azienda di camminare. A seguito, dopo un paio d'anni, nel 94, una disgrazia, il nostro socio direttore Roberto Della Costa è venuto a mancare in un incidente stradale. Allora i soci mi hanno detto, vabbè, tu sei lì, segui, perché c'era ancora il cantiere del ristorante, stavo ristrutturando, c'erano molte cose in corso, e mi dicono, vabbè, fai tu il vino, tanto sei sommelier, per cui... E io ho scoperto che comprare e degustare vino è una cosa, produrlo è un mondo completamente diverso, estremamente complesso. Devo dire che credo che venga un po' sottovalutato, adesso non vorrei fare, però quando dico a amici, ma che lavoro fai? Produco vino, dico, ma che bello. Sì, bello sicuramente, perché io tuttora considero un privilegio fare questo lavoro, mi considero molto fortunato, perché chi produce vino quantomeno abita in posti bellissimi, in campagna, colline, di sotto in strutture molto belle, e fa un lavoro assolutamente bello. Entrare nel mondo del vino però non è facile. C'è da prendere in mano il lavoro, dalla produzione sino agli sbocchi sul mercato e alla relazione con il cliente. O meglio, è facile in teoria, nel senso, dice, vabbè, produci l'uva, prendi un consulente agronomo, poi prendi un enologo, poi al prodotto ti metti sul commerciale. In realtà il vino e bisogna, come dire, conquistarsi la fiducia del consumatore. Questo ovviamente richiede tempo e ovviamente lavoro. E tenete presente che non ha i margini che hanno altri settori, quindi non è come nella moda, dove i margini sono tali perché mi posso consentire grandi investimenti in marketing e in pubblicità. E di solito il marketing delle aziende agricole piccole come le nostre è il contatto diretto, fare le degustazioni, aprire la cantina ai visitatori. Io stesso, che mi occupo dell'estero, prendo la mia valigetta, giro per il mondo e vado a incontrare le città eccellenze italiane, che per fortuna sono tante, e appassionati dal Giappone e dagli Stati Uniti, presentando l'azienda, cosa facciamo, come e perché. Si guarda dunque all'estero, ma l'export rappresenta solo il 15% del fatturato. Il legame più profondo è con i clienti italiani. Sono pochissimi gli azionisti del gruppo iniziale, solo io e un paio di collaboratori siamo impegnati in azienda, e gli altri si occupano tuttora d'altro, per fortuna. Ma va anche detto che nel frattempo siamo cresciuti, abbiamo voluto fare cose diverse. 10 anni fa abbiamo deciso di investire con una piccola vigna a Sangiovese, a Scansano, in Maremma, e altrettanto abbiamo fatto comprando 2 vecchie vigne a Maiorati Spontini, nella zona dei Castelli di Iesi. L'idea era quella di accorpare vini diversi, quindi Franciacorta come vini effervescenti, Bianco nella Marche e Sangiovese in Toscana. Questo è un mix che ci consente di proporci soprattutto all'estero, offrendo anche un servizio, nel senso che all'importatore proponiamo un territorio, cioè l'Italia, ma 3 diverse espressioni di vini con 3 caratteri diversi. Poi tenete presente che, vista dall'altra parte del mondo, le 4 ore e mezza di macchina che ci sono dalla Franciacorta alla Maremma o ai Castelli di Iesi sono una distanza irrisoria, ecco. Negli ultimi anni la Barone Pizzini ha fatto investimenti importanti, soprattutto nell'acquisizione di nuovi terreni. Nel frattempo siamo cresciuti, abbiamo voluto fare cose diverse. 10 anni fa abbiamo deciso di investire con una piccola vigna a Sangiovese, a Scansano, in Maremma, e altrettanto abbiamo fatto comprando 2 vecchie vigne a Maiorati Spontini, nella zona dei Castelli di Iesi, quindi Franciacorta come vini effervescenti, Bianco nella Marche e Sangiovese in Toscana. Questo è un mix che ci consente di proporci soprattutto all'estero, offrendo anche un servizio, nel senso che all'importatore proponiamo un territorio, cioè l'Italia, ma 3 diverse espressioni di vini con 3 caratteri diversi. Alla fine degli anni 90 iniziano, primi in Italia, a fare vino biologico. Quando mi sono trovato a occuparmi di vino nel 94 da neofita, allora quando arrivi in un settore che non è il tuo, ti senti dire bisogna fare così perché è così. Ecco, io non sono proprio il tipo di persona che ha carattere per accettare ragionamenti di questo tipo. Allora, per me dicevano tutti bisogna fare così, non si può fare diversamente, eccetera, eccetera. Poi dicevano come facciamo vino da migliaia di anni e questi prodotti ci sono solo da poche decine, e quindi prima si faceva in qualche altro modo. Allora abbiamo iniziato nel 98 in collaborazione con il nostro agronomo Pierluigi Donna, che è una persona fantastica, che ci ha creduto e ci ha aiutato, e abbiamo iniziato a fare le prove. Gli amici, i colleghi mi dicevano ma non ce la farai dove marcia, costa un capitale, marcirà tutto, perderete qualità. E invece con la prima vigna ha funzionato. Nel 99 abbiamo provato con un secondo vigneto, poi nel 2000, finché nel 2001 abbiamo deciso di farlo su tutto, di estendere l'agricoltura biologica su tutta la superficie aziendale, che è poco meno di 50 ettari, e di certificarla. Quello del vino biologico è un settore in crescita. I vigneti bio in Franciacorta hanno superato i 1000 ettari su un totale di 2900 e rappresentano oggi oltre il 33% del totale, mentre non arrivavano al 5% 5 anni fa. I risultati di Barone Pizzini hanno il segno più. Ogni anno vengono prodotte complessivamente, tra i vari tipi di vino, 500.000 bottiglie. I riconoscimenti sulla qualità del prodotto non mancano, anche a livello internazionale. Il più importante sicuramente, un paio di anni fa a Londra, dal più importante e autorevole concorso internazionale, l'IWC, siamo stati premiati. Eravamo là a cena perché avevamo vinto il trophy come miglior sparkling italiano. E poi davano i premi speciali, diciamo. E io ho sempre pensato che in questi casi qualcuno te lo dice prima. E invece non è andata così, nel senso che io ero a tavolo con il nostro importatore e un paio di clienti, e a un certo punto ho visto sul palco proiettata l'etichetta del nostro Franciacorta Rosé, e poi mi hanno chiamato sul palco, Mr. Bellini sul palco, e ci hanno dato il trofeo come miglior vino biologico. Tenendo presente che questo concorso giudica i vini di tutto il mondo, quindi è un riconoscimento che ci ha proiettato, diciamo, nel gota del vino mondiale. La Barone Pizzini si sta concentrando ora su diversi progetti. Il recupero di alcuni vigneti, la biodinamica applicata, studi sulla vitalità dei suoli. Ma si guarda naturalmente anche all'Expo. un anno particolarmente impegnativo, perché sicuramente avremo molti visitatori sulla Franciacorta, sul Lago d'Iseo e Brescia, e quindi abbiamo il mondo a casa nostra. È una bella occasione, una grandissima opportunità, e sicuramente dovremo imparare a migliorare l'accoglienza, oltre che la qualità dei vini, perché per migliorare non ci sono mai limiti, bisogna sempre far meglio. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.